È il 23 maggio 1987 quando Carol Wojtyła è per la terza volta a San Giovanni Rotondo. L'aereo che trasporta il Papa atterra all'aeroporto militare di Amendola poco prima delle 16.44 di sabato 23 maggio 1987. Sono le 17.15 quando le migliaia di fedeli provenienti da ogni parte d'Italia e anche dall'estero, assiepati dietro 5 km di transenne dalle prime ore del pomeriggio, esprimono con un boato di voci, urla e applausi il loro entusiasmo all'arrivo del pontefice, in un ampio spazio alla periferia nord di San Giovanni Rotondo, oggi denominato Parco del Papa. L'occasione del viaggio apostolico è il centenario della nascita di Padre Pio, ma all'epoca si pensa che ci sia anche un altro anniversario, sottolineato dall'arcivescovo di Manfredonia, i 40 anni della prima venuta di Carol Wojtyła a San Giovanni Rotondo, ricordati da Monsignor Vailati nel suo saluto all'inizio della celebrazione eucaristica. L'omelia di Giovanni Paolo II è incentrata sul mistero della Pasqua. Un solo riferimento è dedicato al paese. Il pensiero del pontefice va in modo speciale allo sviluppo che ha conosciuto in seguito alla presenza e all'opera di Padre Pio da Pietrelcina, per le quali esso ha conquistato una fama internazionale. Tuttora, aggiunge il Papa, grazie all'attività dei frati cappuccini che degnamente continuano l'opera del servo di Dio, la vostra città attira numerosi pellegrini. La vostra città, San Giovanni Rotondo, sta vedendo da un po' di tempo, possiamo dirlo, un giorno fatto dal Signore. Penso in modo speciale allo sviluppo che ha conosciuto in seguito alla presenza e all'opera di Padre Pio da Pietrelcina. Per le quali la vostra città ha acquistato una fama internazionale. Tuttora, grazie all'attività dei frati cappuccini, che degnamente continuano l'opera del servo di Dio, la vostra città attira numerosi pellegrini. Infine, rivolgendosi ai cari fratelli e sorelle di San Giovanni Rotondo, il Papa li esorta ad essere sempre degni della testimonianza qui data da Padre Pio. Cari fratelli e sorelle di San Giovanni Rotondo, siate sempre degni della testimonianza qui data da Padre Pio. La voce del pontefice si diffonde per tutto il paese, trasportata da un imponente sistema di amplificazione. Durante la celebrazione il Santo Padre benedice 6 prime pietre che serviranno per la costruzione di altrettante opere, oggi quasi tutte completate. La casa per anziani e lungodegenti, i reparti chirurgici, il poliambulatorio, il cenacolo Santa Chiara di Casa Sollievo della Sofferenza, l'aula liturgica della nuova chiesa di Renzo Piano e il Centro Internazionale di Spiritualità Padre Pio. Terminata la celebrazione all'imbrunire a bordo della Papa Mobile, il pontefice raggiunge il sagrato del santuario Santa Maria delle Grazie. Lo accoglie il guardiano del convento, Fra Marciano Morra, che poi lo segue in una chiesa gremita di fedeli. Giunto sul presbiterio, si inginocchia in preghiera davanti al Santissimo Sacramento ai piedi del grande mosaico della Madonna delle Grazie, ripetendo un gesto tante volte fatto da Padre Pio. Poi prende posto sulla poltrona di legno a lui riservata, collocata davanti all'altare maggiore, a destra del tabernacolo, mentre il ministro generale dei Cappuccini, Fra Flavio Roberto Carraro, gli dà il benvenuto ufficiale in questo luogo, testimone degli slanci infuocati d'amore, delle angosce, dei tormenti e delle gioie di Padre Pio. Un aspetto essenziale del sacro ministero è ravvisabile nella vita di Padre Pio, è l'offerta che il sacerdote fa di se stesso, in Cristo e con Cristo, come vittima di espiazione e di riparazione per i peccati degli uomini. Questa offerta. Giovanni Paolo II nel suo discorso indica il frate di Pietrelcina come modello per tutti i presenti. Come religioso visse generosamente l'ideale del frate cappuccino, così come visse l'ideale del sacerdote. Per questo egli offre anche oggi un punto di riferimento, poiché in lui trovarono una particolare accoglienza e risonanza spirituale i due aspetti che caratterizzano il sacerdozio cattolico: la facoltà di consacrare il corpo e il sangue del Signore e quella di rimettere i peccati. Non furono forse l'altare e il confessionale i due poli della sua vita? Questa testimonianza sacerdotale contiene un messaggio tanto valido quanto attuale. L'intervento del pontefice si conclude con parole che sembrano un profetico accenno di spiegazione alla missione di Padre Pio. Voglio ringraziare con voi il Signore per averci donato il caro Padre, per averlo donato in questo secolo. In questo secolo così tormentato a questa nostra generazione, nel suo amore a Dio e ai fratelli, egli è un segno di grande speranza e tutti invita, soprattutto noi sacerdoti, a non lasciarlo solo in questa missione di carità. Subito dopo il Papa scende in cripta. I frati cappuccini aprono il cancello in ferro battuto che chiude la recinzione che circonda la tomba di Padre Pio. Giovanni Paolo II entra e in un clima di sorpresa, di grande commozione che prende tutti i pochi privilegiati presenti, si inginocchia. Poggia la sua mano sul grande blocco di granito che sovrasta la sepoltura del servo di Dio. Il suo volto appare contratto. Il suo sguardo dalla tomba va verso l'alto. Trascorrono solo 10 minuti. 10 minuti che a tutti coloro che assistono all'evento sembrano un'eternità. È la prima volta che un Papa si inginocchia dinanzi al sepolcro di una persona che non è stata canonizzata. A molti quel gesto, compiuto mentre è ancora in corso il processo di beatificazione, appare come un'anticipazione del giudizio della Chiesa. Dopo questo intenso e commovente momento, c'è la foto di gruppo con i frati. In rapida successione il Santo Padre viene invitato a scrivere ancora una volta un suo pensiero sul registro dei visitatori illustri, collocato sull'altare della cripta. Nello stesso luogo Fra Flavio Roberto Carraro consegna 2 doni al Santo Padre: un libro di fotografie di Padre Pio intitolato Immagini rubate, edito dai Frati Cappuccini, e un calice usato da Padre Pio. Dal convento giunge dinanzi all'ingresso monumentale dell'ospedale, accolto da un grande coro che canta il Tu es Petrus di Perosi. Gli dà il benvenuto il presidente dell'opera, Monsignor Riccardo Ruotolo, che gli porge il saluto e il ringraziamento anzitutto degli ammalati ricoverati, poi dei medici, dei paramedici, dei religiosi e delle religiose dell'ospedale. Sono lieto di vedere nella sua moderna realizzazione quanto Padre Pio ideò e predisse: una città ospedaliera tecnicamente adeguata alle più ardite esigenze cliniche e insieme ordine ascetico di francescanesimo militante, luogo di preghiera e di scienza dove il genere umano si ritrovi in Cristo crocifisso come un solo gregge con un sol pastore. E questa città sta crescendo ancora. Una cittadella della carità accanto al santuario di Maria che, per volere di Padre Pio, ha il significativo nome di Casa Sollievo della Sofferenza. il sollievo della sofferenza in questa dolce espressione si riassume una delle prospettive essenziali della carità cristiana, di quella carità fraterna che Cristo ci ha insegnato e che per suo espresso avvertimento è e deve essere il segno distintivo dei suoi discepoli, di quella carità il cui fattivo esercizio, soprattutto verso i più bisognosi, è un imprescindibile motivo di credibilità di quel messaggio di verità, di amore e di salvezza che il cristiano è tenuto ad annunciare al mondo. Quest'opera per la quale Padre Pio tanto pregò e tanto si prodigò è una stupenda testimonianza dell'amore cristiano. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Sia lodato Gesù Cristo. Terminata la cerimonia pubblica, il portone d'ingresso di Casa Sollievo si chiude dietro il Papa e il suo seguito, che iniziano la visita ai reparti. Non è tanto la struttura che lo interessa, il suo desiderio è visitare i malati, tutti i malati presenti, 900 malati, uno per uno.